Di pantai Bosuri, di Tapeng Meudi, di Sihita Pajuk Pangito, Malobok Tarotoki, Duku Bereng Bohimi, Alani Ulini Rupami. Di Sihita Pajuk Pangito,